Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua o ti vieni a sdraiare vicino a me. Sapore di sale, di sale, di sale, sapore di mare, di mare, di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Giorni che passano fili e lasciano in bocca il gusto di sale, ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia. Ma mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore. Ti bacio, sapore di sale, sapore.